Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. No, no, non ero io, diceva Silver. Capitano era Flint. Io ero timoniere, causa la mia gamba di legno. La stessa bordata che costò la gamba a me, costò a Pew la luce degli occhi. Fu un dottore in chirurgia che mi amputò. Laurea regolare, tutti i sacramenti, latino a iosa e chi più ne ha più ne metta. Ma fu impiccato, come un cane, e seccò al sole come gli altri a Corso Keston. Così fu con la Cassandra, che ci riportò tutti sani e salvi a casa, dal Malabar, dopo che England ebbe preso il viceré delle Indie. E così fu col vecchio Walrus, la nave di Flint, che ho visto con questi occhi, rossa di sangue e pesante d'oro, che per poco non affondava. «Ah!» gridò una voce, quella del più giovane marinaio di bordo in uno scoppio di ammirazione. «Ah! Era il fior della banda, quel Flint!» «Anche Davis era un uomo, sotto tutti i rispetti», disse Silver. «Non ho mai navigato con lui, prima con England e poi con Flint. Ecco tutta la mia storia. E ora, per mio proprio conto, per modo di dire. Cimolai 900 sterline da England e 2000 dopo da Flint. Mica male per un semplice marinaio. E tutto al sicuro in banca, eh? Guadagnare è men che nulla. E metter da parte che conta. Segnatevela. Dove sono tutti gli uomini di England ora, eh? Non lo so. E quelli di Flint? Ecco, la maggioranza sono a bordo qui e ben felici di poter beccare la torta, dato che prima andavan per elemosina, almeno certuni. Ma ora dammi retta, tu sei giovane, ma sei più che in gamba. E me ne sono accorto subito, appena ti ho messo gli occhi addosso, e voglio parlarti come si parla ad un uomo. Potete immaginare che cosa provassi io a sentire quell'abominevole carogna rivolgersi a un altro con le precise identiche parole di adulazione che aveva adoperato per me. Credo, se ne avessi avuto modo, che l'avrei ammazzato attraverso la botte. Frattanto, tirò avanti, lungi dal supporre di essere spiato. Così la va, coi gentiluomini di ventura. Ne ho 50 di anni, tienilo a mente. Una volta tornato da questa spedizione, mi piazzo da signore sul serio. Se qualcuno mi fa un torto, qualcuno che mi conosca, naturalmente, non pensi poi di passarla liscia. Ci fu chi aveva paura di Pew e chi aveva paura di Flint, ma Flint stesso aveva paura di me. Impaurito era e arrogante, e la ciurma di Flint era la davvero peggior feccia per mare. Il demonio stesso avrebbe avuto paura a mettercisi per mare. Beh, ti dico, non sono un banfone e hai visto tu stesso quanto sono di compagnia. Ma quando ero timoniere io non si potevano chiamare certo agnellini i vecchi filibustieri di Flint. E puoi dormire tra due guanciali sul bastimento del vecchio John. Ora posso dirvelo, replicò il giovanotto. L'affare non mi garbava neanche un po'. Finché non ho avuto questa conversazione con voi, John. Ma ora ci metto la mano. Da quel bravo giovanotto che sei è per giunta avveduto, rispose Silver, stringendo la mano con tanto impeto che ne fu scossa tutta la botte. I miei occhi non si sono mai posati su una persona più adatta di te a diventare un avventuriero. Nel frattempo io avevo cominciato a capire il significato dei loro vocaboli. Avventuriero significava per loro né più né meno che un comune pirata. E la piccola scena a cui avevo assistito era l'atto conclusivo del tentativo di corrompere uno dei marinai onesti. Forse l'ultimo che ci rimanesse a bordo. Ma su questo punto dovevo essere riconfortato, perché a un certo sibilo di Silver un altro individuo sopraggiunse e si mise a sedere accanto alla brigata. «Dick è dei nostri», disse Silver. «Oh, io lo sapevo che Dick sarebbe stato dei nostri!» rispose la voce del timoniere Israel Hans. «Non è uno stupido lui!» E biascicò la sua cicca e sputò. «Ma senti me ora!» seguitò. «C'è una cosa che vorrei sapere io, barbecue. Quanto tempo dovremo ancora gingillarci come su una chiatta arenata? Ne ho fin sopra i capelli del capitano Smollett. Ah, io! Mi ha scocciato abbastanza, maledizione! Voglio entrare in quella cabina, io! Voglio i loro cetrioli, i loro vini, né il resto! Israel, disse Silver, sale in zucca ne hai poco, e poco ne hai sempre avuto. Però ascoltare ti riesce, direi, o almeno le orecchie le hai lunghe abbastanza. Ora ecco cosa dico io, tu dormirai fuori, tu lavorerai duro, tu parlerai piano e resterai a gola asciutta finché non do il segnale io. Sono stato chiaro? Beh, dico forse di no, brontolò il timoniere. Quel che ho detto è quando. Questo ho voluto dire. Quando, quando, per la galera, gridò Silver. Ebbene, se proprio lo vuoi sapere, ti dirò quando. All'ultimo momento. Ecco quando. Abbiamo un uomo di mare di prim'ordine, il capitano Smollett, che governa questa dannata barca per noi. Ci sono questo cavaliere e questo dottore con una carta geografica. E io non so dove sia, no? Né tu lo sai più di me. E allora dunque io intendo che siano questo cavaliere, questo dottore a trovarci il tesoro e ad aiutarci a imbarcarlo per la galera. Dopo vedremo. Se fossi sicuro di voi tutti figli di subdoli olandesi, io vorrei che il capitano Smollett ci avesse riportato indietro fino a mezza strada, prima di dare il segnale. E perché? Siamo tutti marinai completi qui a bordo, mi pare. Osservò il giovane Dick. Tutti marinai di bassa lega, vorrei dire, replicò Silver, capaci di seguire una rotta. Ma chi è capace di tracciarla? È qui che voi altri gentiluomini di ventura mi cascate, dal primo all'ultimo. Ma quando li avremo nelle grinfie, chiese Dick, cosa ne faremo? Ecco uno che mi sfagiola, gridò il cuoco con ammirazione. Così si parla d'affari. Beh, che cosa ne pensereste voi? Abbandonarli a terra? Questo sarebbe stato il metodo di England. O farli a pezzi come tanta carne di maiale, eh? Questo sarebbe stato il metodo di Flint o di Billy Bones. Ma badate, io sono un uomo accomodante. Un mezzo gentiluomo, direte. Ma questa volta la cosa è seria. Il dovere è dovere, compagni. Io voto morte. Quando sarò in Parlamento e viaggerò in carrozza, non vorrei che nessuno di quegli azzeccagarbugli della cabina mi ricomparisse inaspettato in paese come il diavolo in chiesa. Aspettare. Aspettare è quanto vi chiedo. Ma quando viene il momento, o la va o la spacca. Una sola cosa reclamo per me. Triloni. Voglio svitargli quel suo capoccione di vitello con le mie stesse mani. Dick, aggiunse interrompendosi, fai un salto da quel bravo ragazzo che sei e prendimi una mela per rinfrescarmi la gola. Potete immaginare il mio terrore. Sarei balzato fuori e me la sarei data a gamba se ne avesse avuto la forza. ma gambe e cuore mi vennero insieme a mancare. Sentii che Dick cominciava ad alzarsi quando evidentemente qualcuno lo trattenne e la voce di Hans esclamò: «Lascia perdere! Smetti di mangiare quella roba, John! Beviamo piuttosto un sorso di rum, eh?» «Dick», disse Silver, «mi fido di te. C'è un misurino sul barilotto, bada, ecco la chiave. Riempi un boccale e portacelo!» Atterrito com'ero, non potei trattenermi dal pensare che a questo modo doveva essere riuscito al signor Arrow di procurarsi i liquori che l'avevano distrutto. Dick si assentò solo per qualche minuto e durante la sua assenza Israel parlò direttamente all'orecchio del cuoco. Non potei afferrare che una parola o due e, non di meno, ne ricavai una notizia importante, perché fra altri frammenti mi giunse all'orecchio questa conclusione: «Nessun altro di loro verrà dalla nostra.» Di conseguenza vi erano degli altri fedeli a bordo. Quando Dick fu tornato, i tre bevvero, uno dopo l'altro passandosi il boccale, uno alla fortuna, l'altro al vecchio Flint e Silver stesso con una specie di filastrocca. «Beviamo a noi, stringiamoci al vento, mucchi di torte d'oro e d'argento!» Proprio allora, una specie di chiarore si insinuò verso me nella botte e alzando gli occhi vidi che la luna si era levata e inargentava l'albero di mezzana, splendendo chiara sulla vela prodiera. E quasi nello stesso istante la voce della vedetta gridò: «Ohe! Terra!» Ci fu un grande scalpiccio per il ponte. Sentii accorrere gente dalla cabina e dal castello di prua e, scivolato in un attimo fuori della mia botte, mi infilai dietro la vela di trinchetto, girai intorno alla poppa e venni fuori sul ponte scoperto, in tempo per unirmi a Hunter e al dottor Livesey, che correvano per mettersi sopravvento. Là si era già raccolta tutta la ciurma. Una fascia di nebbia si era levata quasi contemporaneamente all'apparire della luna. Lontano, a sud-est, erano visibili due basse montagne e dietro una di esse, distante circa un terzo di miglio, una terza, più alta, la cui cima era ancora avvolta di nebbia, Tutte e tre parevano scoscese e di forma aguzza. «E adesso, ragazzi», disse il capitano quando le vele furono tutte ripiegate, «c'è qualcuno che abbia mai visto la terra che abbiamo di fronte?» «L'ho vista io, signore, e sono approdato con un mercantile su cui facevo il cuoco», disse Silver. «L'ancoraggio è da sud, dietro un isolotto, vero?» chiese il capitano. «Sì, signore, lo chiamano isolotto dello scheletro. Un tempo era un importante covo di pirati e un marinaio che avevamo a bordo conosceva tutti i nomi che avevano dato alle diverse parti. Quella montagna a nord la chiamano cima dell'albero di Trinchetto. Ci sono tre montagne in fila in direzione sud, Trinchetto, Maestra e Mezzana. Ma la Maestra, è quella più alta con la nuvola sopra, la chiamavano di solito il cannocchiale, causa una vedetta che ci tenevano quando stavano all'ancoraggio in disarmo, perché è lì che riparavano le loro navi, signore con licenza». «Ne ho qui una carta», disse il capitano Smollett. «Guardate se il posto è questo». Gli occhi di Long John brillarono nel prendere la carta, ma io, dandole una sbirciata, capii che era destinato a una delusione. Quella non era la carta che avevamo trovato nella cassa di Billy Bones, ma una copia, accurata, completa in tutte le indicazioni, nomi, altitudini, fondali, eccettuato soltanto le crocette rosse e le annotazioni scritte. Per quanto vivo fosse stato il suo disappunto, Silver ebbe la forza di nasconderlo. «Sì, signore, il punto è questo senza dubbio, e disegnato molto abilmente. Chi può averlo fatto, mi domando io. I pirati erano troppo ignoranti, direi. Ah, eccolo qui. Ancoraggio del capitano Kidd. Proprio il nome che gli dava il mio timoniere». Io ero rimasto stupefatto dalla impassibilità con la quale John aveva rivelato la sua conoscenza dell'isola e confesso che ero mezzo spaurito quando lo vidi dirigersi alla mia volta. Certo, non sapeva che avevo spiato i loro conciliaboli dalla botte delle mele, eppure da quel momento avevo concepito un tale orrore per la sua crudeltà, la sua doppiezza e il suo potere che riuscii a fatica a nascondere un brivido quando mi posò la mano sul braccio. «Ah, mi andava dicendo, quest'isola qui è una località incantevole, incantevole per un ragazzo che voglia andare a terra. Potrai bagnarti, arrampicarti sugli alberi, andare a caccia di capre se ne hai voglia, e ti arrampicherai per quelle cime come una capra tu stesso». E battendomi sulla spalla nel modo più amichevole, zoppicò via e scese giù. Il capitano Smollett, il cavaliere e il dottor Livesey stavano discorrendo insieme sul cassero di poppa e per quanto fossi ansioso di raccontar loro la mia storia non osavo interromperli apertamente. Mentre mi scervellavo per trovare un pretesto possibile, il dottor Livesey mi chiamò al suo fianco. Aveva lasciato giù la sua pipa ed essendo schiavo del fumo desiderava che andassi a prendergliela. Ma non appena gli fui abbastanza vicino per parlargli senza essere notato, sbottai immediatamente: «Dottore, lasciatemi parlare. Conducete il capitano del cavaliere giù in cabina e poi trovate un pretesto per mandarmi a chiamare. Ho delle notizie terribili». Il dottore ebbe un trasalimento, ma un istante dopo era tornato padrone di sé. «Grazie, Jim», disse ad alta voce. «Era quanto volevo sapere». Come se mi avesse fatto una domanda lui. E con questo mezzo fece mezzo giro e raggiunse gli altri due. Parlottarono un po' tra di loro e quantunque nessuno trasalisse o alzasse la voce e nemmeno si lasciasse sfuggire un respiro, era evidente che il dottor Livesey doveva aver loro comunicato la mia richiesta, perché la prima cosa che udii fu l'ordine del capitano a Job Anderson di suonare l'adunata di tutti i marinai in coperta. Thank you. Ragazzi, disse il capitano, ho una parola da dirvi. Questa terra che abbiamo avvistato è la meta della nostra navigazione. Il signor Triloni, da quel generoso gentiluomo che è, come tutti sapete, mi ha fatto ora qualche domanda e dato che ho potuto confermargli che ogni uomo qui a bordo ha compiuto il proprio dovere, come non avrei potuto desiderar meglio, lui, io e il dottore scenderemo in cabina per bere alla vostra salute e fortuna. E a voi sarà distribuito un punch per bere alla salute e fortuna nostra. Vi dirò che cosa penso di quest'atto, che è nobile, e se la pensate come me manderete un evviva alla marinara al gentiluomo che l'ha compiuto. Seguì l'evviva, s'intende, ma sono così pieno e cordiale che confesso riuscivo a fatica a capacitarmi che quegli uomini stessero complottando contro le nostre vite. «Un altro evviva per il capitano Smollett!» gridò Long John quando si fu chetato il primo, e anche questo salì unanime. Nel colmo di quest'ultimo, i tre gentiluomini scesero a basso e non tardò molto che fu mandato a dire che Jim Hawkins era desiderato in cabina. «Dunque, Hawkins», fece il cavaliere, «tu hai qualcosa da dire? Parla!» Eseguì quanto mi veniva ordinato e, facendola breve il più possibile, riferii tutti i particolari della conversazione di Silver. Nessuno mi interruppe finché non ebbi finito, e nessuno dei tre fece il minimo movimento, però tutti e tre mi tennero gli occhi fissi in viso, dal principio alla fine. «Jim», disse il dottor Livesey, «prendi una sedia». E mi fecero sedere accanto a loro, mi versarono un bicchiere di vino, mi riempirono le mani di zibibbo, e tutti e tre, uno dopo l'altro, e facendomi ciascuno un inchino, bevvero alla mia salute e alla speranza di ricambiarmi, rallegrandosi per la mia fortuna e il mio coraggio. «E adesso, capitano», disse il cavaliere, «avevate ragione voi e torto io. Riconosco di essere stato un asino e aspetto i vostri ordini». «Non più asino di me, signor mio», replicò il capitano. «Non ho mai sentito di una ciurba in procinto di ammutinarsi che non ne desse qualche indizio prima, in modo che chiunque avesse occhi potesse prevedere il tiro e prendere le debite misure. E questa ciurma qui», aggiunse, «mi batte». «Capitano», disse il dottore, «se permettete la causa, è Silver, un tipo eccezionale. Farebbe la sua figura all'estremità di un pennone, signore», replicò il capitano. «Ma sono discorsi che non portano a nulla. Io vedo tre o quattro punti e col permesso del signor Triloni li passerò in rassegna». «Siete voi il capitano? Spetta a voi parlare», disse il signor Triloni magnanimo. «Punto primo», cominciò il capitano Smollett, «dobbiamo andare avanti perché indietro non si può tornare. Se dessi l'ordine di virare si ammutinerebbero sull'istante. Punto secondo, noi abbiamo davanti del tempo, almeno fino a quando questo tesoro non sia trovato. Punto terzo, ci sono dei marinai fedeli. Ora, signore, alle mani bisognerà pur venirci prima o poi. Quel che propongo io è di afferrare l'occasione per i capelli, come dice il proverbio, venire alle mani un bel giorno, quando meno se l'aspettano. Possiamo fare assegnamento, credo, sui vostri servitori personali, signor Triloni». «Ma come, su me stesso?» dichiarò il cavaliere. «Tre», contò il capitano, «e con noi fanno sette, comprendendoci Hawkins qui presente. In conclusione, signori, disse il capitano, non ho granché di buono da dire. Stare in campana e fischiare in attesa del vento. Questo è il mio parere. Il nostro Jim, disse il dottore, può aiutarci meglio di chiunque. I marinai non diffidano di lui e Jim è un ragazzo sveglio. Hawkins, ripongo in te un'immensa fiducia, aggiunse il cavaliere. Queste parole mi misero alla disperazione, perché mi sapevo del tutto impotente. Eppure, per un bizzarro seguito di circostanze, fu davvero per mezzo mio che la salvezza venne. Intanto avevamo un bel dire, ma non ce n'erano che 7 su 26 sui quali sapessimo di poter fare assegnamento, e di questi 7, uno era un ragazzo. Cosicché gli adulti dalla nostra parte erano 6 contro i loro 19. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it